Cari amiche, cari amici, bentrovati, bentrovate, Radio Alma, Brussellando, Mari Dia ai microfoni, questa sera per una puntata ancora più ricca e scoppiettante. Prima però di avviare questa nostra serata insieme, ci tenevo a commentare i risultati, insomma, di un evento che, lo so, ci piange ancora il cuore, però siccome ne avevamo parlato nelle settimane scorse, credo sia opportuno poi chiudere l'argomento così come l'avevamo avviato due settimane fa. Ebbene, l'Italia, come tutti voi sapete, dopo tanti anni, forse sarà un trentennio, non riesce a superare la fase di qualifica dei mondiali, insomma la fase, quella finale, quella più interessante. Tanto è stato scritto, è stato detto, io mi trovavo in Italia quei giorni, quindi insomma l'emozione, l'illusione, la disillusione insieme l'ho potuta vivere direttamente sulla mia pelle. Che dire, se da un lato è vero che probabilmente le scelte fatte da Marcello Lippi non erano quelle che potevano assicurare continuità ad una squadra che effettivamente era senza fantasia, dall'altra è anche vero che probabilmente sono le generazioni cambiate rispetto a quelle che lo stesso Lippi ha reso celebri, perché diciamocela tutta, Lippi è un grande talent scout, uno di quelli che ha sempre vinto, è un vincente e ha trasformato giocatori da perfetti sconosciuti a, insomma, a signori giocatori. E probabilmente qualcosa è andato semplicemente storto, non è stata soltanto, insomma, alcune decisioni arbitrali, mancava forse lo spirito di una squadra che probabilmente non aveva proprio deciso di vincere. Questa è l'unica risposta plausibile e razionale che possiamo trovare. Noi auguriamo al nuovo tecnico Prandelli veramente tutto il meglio, speriamo che riesca a risanare prima di tutto una realtà che ci dice che la squadra campione d'Italia ha probabilmente tre giocatori di nazionalità italiana e tante altre squadre maggiori ricorrono ad altri vivai piuttosto che ricorrere a quelli italiani. Forse questo è anche un po', diciamo, è il segnale anche dei tempi che viviamo, visto che tanti di noi a un certo punto decidono di lasciare la madre patria. Eppure però per il gioco calcio io non sono sicura che sono tanti i ragazzini che lanciano ancora volentieri qualche palla in aria e sognano quella benedetta maglia, la maglia della nazionale. E l'altro rammarico è che sicuramente tra i talenti che Lippi aveva con sé ce n'erano alcuni a cui, se fosse stata data una chance in più, magari oggi saremmo lì a festeggiare per una semifinale. Ma questa è un'altra pagina di storia, insomma, auguriamo quindi a tutto il popolo che ama il calcio, insomma, tanti momenti ancora di buon calcio. E noi di Brussellando apriamo quindi e continuiamo queste nostre puntate dedicate a cose che ci fanno, sì, magari soffrire di tanto in tanto, perché veramente leggiamo e riceviamo poesie, romanzi che effettivamente ci aprono gli orizzonti. E questa sera, devo dire la verità, sono molto contenta, perché da un lato abbiamo un ospite al telefono che ci parlerà dell'informazione e del futuro dell'informazione, Marco Bardazzi. Dall'altro invece abbiamo uno di quei talenti di cui vi parlavo prima, che ha deciso di lasciare l'Italia, che ha scoperto una nuova realtà, ma poi sarà lei a descriverci nel particolare la sua esperienza, e che probabilmente proprio poi in un altro paese scopre ancora un'altra realtà, che è quella dell'Africa, e chi è stato in Africa sa molto bene che ovunque si vada poi ti resta dentro quella malinconia ed è difficile poi ritornare in Europa. Insomma, comunque quando si ritorna in Europa poi c'è sempre quella tentazione di voler ritornare nel continente africano. Col mal d'Africa, esatto. Quindi George finalmente è arrivato. Ma io pronto? Sì. Caro Damien, ecco, mi si sente? Sì, va bene, lui era occupato col microfono, quindi è il nostro ospite qui questa sera. Oh, adesso mi sento. Ora ti sento, chiaro e sento. Forte. No, ma io ero qua nascosto. Eri mentre nascosto. Si ascoltavo le tue parole, pendevo dalle tue labbra. Sì, sì, sì. Non sentivi le labbra, sì, pesanti? Sì, come? Bueno. Poi magari Daniel ci aggiorna sul risultato di Spagna-Portogallo, va così, magari. Spagna-Portogallo a questo momento 0-0. Ti ringrazio. Salutiamo anche Fiordaliso. Dal fondo del... che in altre faccende affaccendata. Quindi salutiamo calorosamente Serena Stefani. Buonasera. Che allora, lo so che avevamo detto che non avremmo parlato, però secondo me, insomma, una parentesi la potremmo aprire. Come mai sei venuta in Belgio? Voglio partire con questa domanda così semplice. Mamma mia, La ragione è banale, penso che sia quella che accomuna tutti i nuovi emigranti. Per amore, avevo un fidanzato e quindi... Avevi un fidanzato, sì. Già, insomma, avevi un fidanzato, cioè, quindi, un attimo, banalmente un fidanzato belga, un o fidanzato che viveva... fiammingo, sì, fiammingo. E per questo mi sono trasferita gandese. Gand è una bellissima città, quindi sì, insomma, è molto bella, tra le città forse delle Fiandre, tra le più belle. Sì, infatti ci sono rimasta, poi vabbè, c'ho il lavoro che mi piace molto. Okay. Quindi prima tappa, l'amore. Seconda tappa. No, prima tappa l'amore e insieme all'amore il fiammingo. Giustamente. La lingua fiammingo. Che ha imparato. Ha imparato il fiammingo? Sì, diciamo. Infatti, me la cavo, ecco. Benissimo, ora, dire che lo parli bene mi sembrerebbe troppo, però... Ma è importante. Però insomma, è importante, insomma, è uno sforzo. Da quanto tempo sei da in sette terra anni. Da sette anni. Hai sempre vissuto a Gand? Sì, sempre lì. Sì, perché non avrei, credo, potuto vivere in un altro paesino delle Fiandre. Diciamo, ecco, una grande città. Preferivo comunque una media come Gand, che offre abbastanza, che certo non come Bruxelles, però lavoravo per e lavoro tuttora per la provincia Oost-Vlaanderen, quindi è stato più logico rimanere lì, nel centro dell'Oost-Vlaanderen. Hai capito. Un'italiana che lavora per la provincia. Ma questi sono questi sono i micromondi, tutte quelle cose possibili che poi chi intende, insomma, perseverare. È stata una casualità lavorare, è una casualità oppure di cosa ti occupi con loro? Io sono insegnante di italiano appunto per nelle scuole provinciali con gli adulti, Volwassenen Onderwijs. Insegno agli adulti, ragazzi o persone anche anziane di tutte le età, la sera ma anche il giorno, ma la scuola è serale, diciamo, quindi persone che amano l'italiano, che vogliono andare in vacanza o leggere la letteratura italiana o capire l'opera anche. Capire l'opera? Beh, sì. Uno dei motivi più ricorrenti è capire l'opera, Eros Ramazzotti anche, naturalmente, però io preferisco magari dire l'opera. Magari Dante, Boccaccio, Petrarca, no. Montale. Come? Scusa? Che hai detto? Non ho capito. Chi sono? Ripeti? Mai sentiti? Mai. A quelli ci si dovrebbe arrivare, partendo da Eros. No, è che l'opera non è per niente semplice, insomma, non sono libretti scritti l'anno scorso, sono libretti dell'Ottocento, Settecento. La lingua stessa, voglio dire, ha sfumature già difficili per noi. Io propongo dell'anno prossimo alla scuola di Gand di insegnare Georges Laurent. Per esempio. Il lorandese. Il lorandese, che è una variazione dell'italiano. Il lorandese. potrebbe essere un suggerimento. Una commistione si parla, ungherese. Si parla nella nella Est XL. Est XL, sì. Est, ma è sempre Ost. Sì, Ost. Non a caso. Oost-Vlaanderen, Oost-Elsene. Oost-Elsene. Allora, però, diciamo... Insegni per passione, ovviamente, ma ci sono anche altre passioni, sì, che io veramente ho scoperto con estremo interesse, anche perché poi c'è questo argomento a me molto caro, quello dell'Africa, perché ho lavorato 2 anni nella cooperazione e lo sviluppo, sono state varie volte in Africa, quindi insomma... Ale, anche tu affetta da mal d'Africa. Sì. Anche se poi effettivamente andare in Africa e poi ritornare lascia sempre... uno strano vuoto, sì, e soprattutto di impotenza, perché ci si rende conto quanta strada effettivamente ci sia da fare da quelle parti e anche quanta, da queste, sicuramente anche da queste, però insomma va bene, comunque sì, è vero, non apriamo una parentesi sulla così. Quale indubbiamente è così. Quindi tu hai dedicato poi all'Africa una pièce teatrale, possiamo chiamarla pièce teatrale? Sì, sì, sì, assolutamente, che io ho trovato estremamente interessante perché, allora, innanzitutto parliamo già del formato, quindi Enfant d'Afrique, edito dalla Pana no, è Joker, edizioni Joker, di Novi Ligure, però Panopticon è la collana teatrale, sì, però è scritto Panopticon al posto della casa editrice. No, vedi, Joker effettivamente è scritto piccolissimo. E... raccontaci un po', insomma, la genesi di questo tuo Enfant d'Afrique e poi, se vuoi, possiamo leggere anche magari un passaggio, insomma, una delle scene. Sì, Portet, ho... Portet. Ma On Found Afrique è il secondo libro sull'Africa di argomento africano che ho pubblicato. È un po' la continuazione, la variazione sul tema del primo libro, che è Caverne e Caverne, tutti e due due libri bilingui, quindi con la parte scritta in italiano in originale da me, poi delle traduzioni che sono state fatte anche con la mia collaborazione, e quindi due libri bilingue e che parlano più o meno della stessa storia, ossia hanno la stessa struttura, lo stesso plot, ecco, più che altro. E la pièce è una variazione, una continuazione cronologica ideale, è una variazione, perché appunto viene qualche anno dopo e allora i temi sono maturati. Ma infatti, quindi penso che i libri vadano letti insieme, perché la loro genesi, tu mi chiedevi della genesi, la genesi è di entrambi la stessa in qualche modo. E io ho incontrato, per ragioni autobiografiche, per esperienze così personali autobiografiche, l'Africa e gli africani, e allora diciamo che mi è venuta questa ispirazione. Già scrivevo naturalmente a Firenze, sono un'amica di Liliana Ugolini che ti hai già ospitato qui in trasmissione, poi più tardi la salutiamo. Sì, diciamo che quindi già stavo scrivendo, avevo pubblicato su riviste, però Caverne, Caverne è il mio primo libro e è stato scritto proprio qui in Belgio, perché qui in uno spazio altro rispetto a quello mio che era italiano, ho conosciuto questo altro mondo, quindi questo terzo mondo, diciamo, che è l'Africa. E mi è venuta questa ispirazione, dicevo, un'ispirazione poetica, nel senso che ho fatto dell'Africa una grande metafora, sia di pensiero, quindi diciamo filosofica, tra virgolette, che letteraria. Nei due libri, soprattutto nel primo, ma anche poi nel secondo, più in prosa, perché è appunto un'opera teatrale, quindi viene discusso, c'è proprio il conflitto, confronto tra il qui e l'altrove, no? Tra il qui e là. E quindi l'Africa diventa l'altro per eccellenza, come hai detto anche te, con cui confrontarsi, e diventa la metafora del tentativo di incontro, e del significato della necessità di questo incontro, ma anche forse della difficoltà, dell'impossibilità di questo incontro. Eppure le tue poesie sono veramente particolari. Prima, perché io ho ritrovato una maturità di scrittura eccezionali. Grazie. E non lo dico semplicemente perché sei qui presente in studio, ma anche perché effettivamente ormai sono 3 anni che abbiamo Brussellando, e quindi in 3 anni, al di là della mia esperienza diciamo di lettrice, ho potuto leggere tanto. E mi ha sorpreso anche, non lo so, io ho sentito attraverso le tue poesie una tua partecipazione effettivamente forte verso i temi più cari all'Africa. Mi viene in mente poi uno dei temi che ho trovato più spesso nelle tue poesie, che è la figura della donna. Poi vengono i bambini, quindi raccontaci un po' di questa tua esperienza con l'incontro con l'universo femminile in Africa. Sì, il libro di poesie Caverne è una specie di, anche quello forse, di pièce nascosta. C'è una pièce nascosta anche dietro il libro di poesie, perché ci sono 3 personaggi, 2 donne appunto e un uomo, e ogni personaggio ha 10 poesie in cui espone il suo punto di vista e racconta la sua storia. E c'è appunto la donna bianca, la femme blanche, e il maschio nero, le mal noir, e poi la moglie africana, l'épouse africaine. E quindi, essendoci 2 donne, il pilastro fondamentale è naturalmente il confronto tra le 2 donne, tra le 2 sensibilità, che risultano non conflittuali ma complementari. E invece diciamo che il conflitto forse ideologico, anche esistenziale, è piuttosto con l'uomo, Dicevo, l'Africa diventa la metafora dell'incontro attraverso l'amore, perché sono libri che raccontano oltre che temi, perché ci sono anche temi politici, temi che riguardano il neocolonialismo, la fine del colonialismo, e quindi i rapporti anche di le grandi disparità tra i due mondi, tra Occidente e Africa, ma tutto ruota intorno a delle storie d'amore. Quindi è la storia d'amore tra la storia d'amore da cui tutto parte, è quella tra appunto la femme blanche, la donna bianca, e poi l'uomo africano. E questo risulta una specie appunto di amore come realizzazione di un'utopia, l'utopia di questo incontro, uh-huh. no? I personaggi non sono solo, sono anche degli individui anonimi, ma non sono solo quello, sono anche i portatori, si portano dietro tutta la loro cultura, la loro storia, sono dei continenti, non sono solo degli individui. E quindi quindi diciamo che diventa una storia d'amore a tema, con dei temi, con un senso, e attraverso questa uscita da sé che è l'incontro, no? Io non sono più il mio io, il mio me, il mio sé normale, banale della mia caverna, quindi il mio sé europeo, il mio sé africano, ma sono un sé diverso che forse è più profondo, più originario, più aderente al me più profondo, più aderente al me. A proposito, quindi mi ricollego al titolo, era una delle mie ultime domande, perché volevo insomma che ci fosse un po' una continuità degli argomenti. Quindi questo punto che tu hai appena sviluppato è ovviamente collegato anche al titolo, quindi caverna, quindi è questo il simbolo, quindi l'uscita, che anche insomma dimostra questa capacità di guardare oltre e di scoprire poi universi paralleli, o come dicevamo prima in apertura di trasmissione, in microcosmi che si ha poi la possibilità di incontrare. Però a questo proposito, quindi a proposito di questi microcosmi, qual è la concezione che ti sei fatta invece sull'uomo africano, che rispetto a quello che magari può essere un luogo comune di noi europei? Quindi qual è invece l'immagine che tu hai sul terreno di questi uomini africani in generale? Ma questo è naturalmente una domanda molto difficile, lo so, perché a livello diciamo che a livello puramente biografico, io faccio i viaggi in Africa e trovo gli uomini africani molto molto simpatici, anche le donne naturalmente, ma è vero che gli uomini hanno per certi aspetti più libertà, no? più apertura anche, ma è una questione storica, per quanto riguarda il testo, sì, lì augurerebbero un'uscita dalla caverna, la caverna come prigione delle nostre determinazioni esistenziali, sociali, storiche, verso uno spazio altro, un cielo aperto, anche un deserto, però in cui si va liberi, l'incubo della libertà. Si può trovare, ecco. A proposito di libertà, noi ci prendiamo un attimo una pausa, perché abbiamo insomma, magari prendo lo spunto in questo momento, abbiamo un ospite già al telefono, quindi ritorniamo subito con Serena tra qualche minuto. Marco, a noi italiani a quanto pare da qualche tempo è assai caro. Lei è un giornalista, scriveva per l'Ansa, ora se non sbaglio per La Stampa, e ha scritto insomma un saggio dal titolo L'ultima notizia, col quale in realtà lei illustra quello che potrebbe essere il futuro dell'informazione. Allora, una domanda mi sorge spontanea rispetto alla sua esperienza di giornalista, quindi di una persona che quotidianamente si ritrova a dover descrivere e riportare ad altri. Che cosa c'è in funzione? Vorrei un'altra parola che è stata introdotta dall'avvento del digitale, delle nuove tecnologie, che ormai stanno cambiando vari aspetti del nostro modo di vivere, del nostro modo di essere, anche delle nostre interazioni. Sta cambiando un po' tutto, anche il modo con cui leggiamo, il modo con cui i nostri figli apprendono, il modo con cui avvengono i nostri rapporti sociali. Pensiamo al boom dei social network. L'informazione ovviamente rientra in questa trasformazione e ne fa parte, rischia un po' anche di esserne travolta se non riesce a stare al passo con i cambiamenti, quale era stato pensato nel corso degli ultimi decenni. Però come ogni momento di crisi è anche un momento di grandi opportunità, perché si sta inventando un nuovo modo di comunicare, di raccontare la realtà, che assorbe, tiene conto di tutte queste nuove possibilità che ci vengono fornite. Per chi ha la passione di raccontare il mondo, come di solito normalmente hanno i giornalisti, ha la curiosità di star di fronte facendo cadere tante certezze e tante anche abitudini nel mondo dei giornali, delle radio e delle televisioni. A suo avviso, di fronte a questo uragano, come è cambiato il rapporto di voi che scrivete rispetto alla parola? Ma la parola diventa e sarà sempre più parte di un qualcosa di molto più complesso, fluido ed ancora difficile da definire. Siamo in un momento in cui affronta un racconto lineare tradizionale, un racconto che ha un inizio, uno svolgimento e una fine, è abituata a saltare da una parte all'altra di una storia, è abituata ad essere provocata con video, audio, interazioni, è abituata e cresciuta con videogiochi di estremamente sofisticati e che stimolano varie parti del cervello, diciamo anche. In questo scenario, anche per noi che facciamo informazione, tante altre provocazioni. Però continuiamo a essere convinti, certi, che resterà la base su cui costruire. C'è soltanto da arredarla e accompagnarla con stimoli anche di altro genere. E rispetto quindi a questi social network, insomma, ormai fanno parte della nostra vita in maniera anche direi esorbitante, perché occupano effettivamente tanto spazio. Che cosa immaginare rispetto di avvalersi di altri strumenti mediatici, Facebook o quant'altro, ma secondo lei fino a che punto poi questo tipo di informazione viene percepita dai lettori in maniera seria? Cioè, esiste ancora magari un senso diciamo di subordinazione di uno strumento rispetto a un altro? E l'altro sarebbe il giornale tipico tradizionale, per esempio. Certo. Sta cambiando sicuramente la modalità con cui le opere musicali, i concerti musicali, e che le persone dall'altra parte del telefono potessero semplicemente stare lì con la cornetta e ascoltare la musica. È durato poco, non ha funzionato. Perché? Perché la gente ha capito che col telefono si poteva interagire e quindi ha voluto interagire. Con l'arrivo di internet c'è voglia di interazione. Fino ad oggi i giornali potevano permettersi di essere semplicemente uno strumento che raccoglieva informazioni da una parte e la riportava dall'altra, e non c'era uno scambio di ritorno se non nelle lettere al giornale o in rare opportunità di interagire con la redazione. Ecco, questo sta cambiando, e sta cambiando nei giornali come sta cambiando nella politica. C'è voglia di maggior coinvolgimento da parte della gente, e quest'ultimo decennio di social network e di internet lo ha aumentato. Noi nel libro, con Massimo Gaggi, che è il coautore del libro, abbiamo tentato un giochino per riassumere com'è che sta cambiando questo scenario, e l'abbiamo sintetizzato nella regola delle 6C. Ci sono 3-9C introdotte dall'era del web, che sono conversazione, comunità e condivisione. Sono tre termini di cui dobbiamo sempre più tener conto e che vanno ad unirsi a 3C tradizionali che i giornali portano con sé, che sono contenuti, creatività e credibilità. Ecco, è vero però che sia pur aprendosi sempre più al mondo, seppur dando spazio sempre più a una maggiore conversazione con i lettori, i giornali avranno un futuro e le redazioni tradizionali avranno un futuro se manterranno la loro credibilità, la loro autorevolezza, e quindi nel caos che sicuramente ci sarà sempre più nella rete, il caos di informazioni che ci bombardano, ci sarà sempre più bisogno di chi mette ordine in maniera credibile e autorevole. Beh, questo mi sembra essere effettivamente poi un argomento abbastanza sensibile, non lo dico solo per la stampa italiana, ma anche qui da queste parti, insomma, stiamo attraversando un momento abbastanza particolare. E a proposito della credibilità, secondo lei quali sono i fattori che incidono maggiormente nella credibilità di un media piuttosto che di un altro? Ma noi giornalisti abbiamo senz'altro molto da farci perdonare dal punto di vista della credibilità, un po' a tutti i livelli, perché molto spesso ne abbiamo abusato, anche perché fino ad oggi un certo modo di fare giornalismo, un certo modello di business su cui si reggono le strutture giornalistiche ce lo permetteva. Qualunque cosa uno scrive, poi comunque è la pubblicità che sostiene l'apparato del giornale, non perderemo certo copie per quello. Ecco, non è una cosa che possiamo continuare a permetterci nello scenario del XXI secolo, perché ci sono molte altre fonti a cui la gente può attingere e quindi dobbiamo guadagnarci, credo che dovremo sempre più guadagnarci l'attenzione e la stima dei lettori proprio con la credibilità. In che cosa consiste la credibilità? Secondo me è molto semplice, ognuno di noi ha bisogno di qualcuno che lo aiuti a fare le scelte quotidiane, le scelte di tutti i giorni, dove investire i propri soldi, come educare i propri figli, chi votare alle prossime elezioni politiche, che tempo ci sarà domani, dove posso andare nel fine settimana. E cose di questo genere. Lo strumento che in modo credibile e anche interessante riesce ad aiutarmi a compiere le scelte della mia vita, le cose a cui tengo, ecco, continuerà ad avere la mia stima. Al momento in cui questa credibilità viene tradita, al momento in cui le opzioni che mi vengono date per le mie scelte si rivelano poi opzioni poco attendibili, io avrò senz'altro sempre più altre opzioni a cui scegliere, magari anche a minor costo, e quindi quei giornali saranno spacciati. Visto che stiamo parlando appunto di media e per questi internet, volevo fare una domanda, è un po' troppo precisa, però insomma può anche non rispondere. Però qui a Bruxelles va molto di moda Dago Spia, che ovviamente la gente non legge i giornali perché dovrebbe comprarli, quindi preferisce andare su internet e invece di leggersi il sito Repubblica, il Corriere, il Manifesto, Unità, qualsiasi altra cosa, Libero, il giornale, eccetera, legge Dago Spia, perché lo trovano, almeno questa piccola intervista, questo piccolo questionario che ho mandato in giro fra le persone che conosco, lo trovano che sia diretto, non molto, insomma, che dia delle notizie, insomma, credibili, ecco perché mi riferivo a questo, credibilità, di notizie credibili, e in un modo abbastanza asciutto, perché poi in fin dei conti dicono tanto è su internet, hanno delle spese molto inferiori a quelle in giornale, per cui è più probabile che non siano così toccati dagli interessi di un editore. Condivide, è possibile che ci sia, visto che lei ha lavorato anche per l'ANSA, è possibile che ci sia una possibilità di avere una maggiore credibilità su internet perché ci sono meno mezzi in gioco, ci sono meno interessi in gioco? Ma io penso soprattutto che ci sia in arrivo in futuro una realtà, un sistema per cui non tutto sarà disponibile gratuitamente come lo è oggi su Dago Spia. Io sono stato 9 anni negli Stati Uniti, ho visto il crescere e esplodere il fenomeno del Drudge Report, che poi è ciò a cui Dago Spia si ispira, e senza dubbio sono degli aggregatori di notizie, oltre che delle fonti primarie, alla fine anche di notizie, che hanno un enorme successo e continueranno ad averlo, ma si sta delineando uno scenario per cui sembra impossibile che possa permanere nel futuro prossimo una disponibilità totale e gratuita dell'informazione su internet. Ci saranno sempre più degli strumenti che permetteranno di continuare ad avere l'informazione di base gratuita, ma permetteranno e offriranno anche la possibilità a chi vuole andare più a fondo, a chi ha esigenze ulteriori, di attingere a informazioni a pagamento. È un po' come ciò che noi facciamo con l'acqua: in casa abbiamo il rubinetto che continuerà ad essere il rubinetto che distribuirà l'acqua per tutti, Però ognuno di noi poi magari va al supermercato e sceglie l'acqua gassata, effervescente naturale, leggermente frizzante, oppure naturale ma che proviene da una certa fonte. Ecco, oggi Dagospia può soddisfare le esigenze di molti che intendono avere una panoramica sui fatti e anche alcuni approfondimenti, anche perché tutto quello che è disponibile in maniera gratuita. Penso che non lo sarà ancora a lungo, questo non significa che saliranno delle barriere su internet, perché internet è uno strumento che non lo permette, sarebbe assurdo anche che fosse così, però verrà fuori probabilmente un'offerta che chi la riterrà opportuna permetterà a molti di approfondire con qualche euro in più speso al mese. Speriamo che questo poi non si trasformi in un divario effettivamente, perché tutto sommato l'informazione dovrebbe poi poter essere accessibile a tutti. Non so se condivide questa. Questo senza dubbio, ma più che un divario si trasformerà in un qualcosa di simile al fenomeno che per esempio è avvenuto in Italia, non so, con Sky, con la televisione a pagamento. Quando Sky è debuttato in Italia sembrava impossibile che qualcuno avesse l'esigenza di sottoscrivere un abbonamento televisivo quando c'erano già tanti canali a disposizione in maniera gratuita, e Sky ha avuto invece un notevole successo perché probabilmente nel budget mensile di ognuno di noi c'è chi ritiene di poter devolvere una certa somma a quel tipo di intrattenimento o a quel tipo di informazione. Lo stesso è avvenuto negli ultimi anni per le spese che noi dedichiamo all'abbonamento per il telefono cellulare o alla chiavetta internet, certo. Spese che fino a pochi anni fa non avevamo nel nostro budget. Ecco, può darsi, non è escluso, che nei prossimi anni tra le nostre bollette quotidiane avremo anche una bolletta delle news, una bolletta delle notizie, 10 euro al mese che ci serviranno per una serie di approfondimenti, non per dividere l'informazione, non per tagliare fuori fonte di informazione, ma per dare informazioni a un livello diverso. Sono assolutamente d'accordo con lei, il problema però che vedo e che lei aveva accennato è la reazione fra l'approfondimento, che a me interessa molto e che già mi vede disponibile a investire una certa somma per l'approfondimento, è il legame con la credibilità, cioè quanti saranno gli approfondimenti disponibili e se sono divergenti quale di essi è quello più credibile, perché su questo un po' il problema. Questo fa parte, io penso, di ciò che già portano con sé come bagaglio le testate che oggi esistono. Già oggi sono numerosissimi in giro per il mondo coloro che sono disponibili a pagare un abbonamento al Wall Street Journal, all'Economist, al Financial Times, così come al Corriere della Sera, alla Repubblica, alla Stampa. Non sto dicendo che i blog gratuiti online sono inattendibili, allora bisogna comprare i giornali tradizionali. No, certo, sto dicendo che chi già oggi si è guadagnato una credibilità, perché magari da 150 anni si trova sul mercato con una certa testata, penso possa avere la capacità e la possibilità di offrire degli approfondimenti che hanno come marchio di garanzia e quindi come marchio di credibilità proprio quella testata, quella storia che stanno alle spalle di quel prodotto. Marco, noi la ringraziamo veramente di questa sua partecipazione a Brussellando, purtroppo in radio il tempo è assolutamente tiranno e scorre veloce, ci auguriamo però di poterla avere nuovamente nostro ospite, magari per il suo prossimo libro, chissà. Volentieri, mi sa che dovete aspettare un po' di tempo, ma volentieri. Va bene, allora noi la ringraziamo, le auguriamo un'ottima serata e speriamo a prestissimo. Grazie molto anche a voi, buonasera. Buonasera. Grazie infinite. E speriamo che Sky diminuisca gli abbonamenti dopo questi mondiali, mamma mia. Senza dubbio. Buonasera. Arrivederci. Ed eccoci nuovamente qui. Insomma, l'informazione è un argomento abbastanza delicato, soprattutto oltralpe. Informazione e informazione automatica. Anche. Bah. Intanto mi ci perdo sopra un po' sull'informazione automatica. Di tanto in tanto, effettivamente. Ritorniamo invece alla nostra Serena che è qui con noi in studio. Quindi avevamo un po' introdotto alcuni dei suoi argomenti, avevamo parlato, quindi cercando di capire un po' quella che è la definizione di Serena e per la donna e per l'uomo africano, ma lungi da avere poi una distinzione effettivamente netta tra l'uno e l'altro, perché tutto sommato ci troviamo sempre di fronte a categorie che nel momento in cui esistono, il fofera vec, come si dice, certo, da queste parti. E vedo George agitare, quindi va bene, dai, leggi la poesia. La natura t'ha gatti, perché ho una natura, diceva mio volgo, che cinge, perché non mi bagno del tutto e lascio passare l'attrito. Eppure non sono caverna, ma nicchia stazione di marce forzate. Su me si riposano piogge in cammino, i grani trapassano senza fermento. Dov'è questo dire, nature, bla bla? Lo voglio vedere graffito sul libro del mondo, di fronte alle spose e ai guerrieri, di fronte ai dottori. Quella che aspetta sicura nel ventre ha dalla sua gli statuti, i codici antichi. Ma le anarchie del vivente lo sono di più. Grazie di questa lettura molto bella. Questa era La donna bianca. Ora leggi pure un'altra, magari, che possa fare da... Ecco. Donata al tuo occhio infuocato, mi sono vista dimenticare passata la costa. Mi dici che era un'astuzia, che questo sei tu, che ben conoscevo il percorso votato a rapace. La mia resistenza di soglia deve bastarmi. Eppure coltivo un dubbio angolare sul senso di questo mio posto, deciso e gestito a priori. E infine, dopo la donna nera, l'uomo nero. Dai. Da eroe ho vissuto, scegliendo di esserlo fuori di me. In patria ho combattuto battaglie di altri, avevo orrore del personale, dei vasi comunicanti, degli uteri vuoti, che pure esploravo. Tutti hanno amato il riflesso che solo lasciavo apparire, come Medusa. Devono a me il panorama di pietra che ci circonda. Non è dalla bianca che ha preso la rivoluzione. Ho chiesto ai nostri baobab, ai nostri baos, pur aspettando mill'anni, del tempo perduto, e mi prendo la responsabilità. Grazie. Sì, te mi avevi fatto questa domanda, naturalmente sono argomenti un po' complessi, non so quanto riuscirò a spiegarmi, ma qui già nelle poesie che ha letto George, grazie, a proposito, viene fuori questo discorso che facevamo, cioè la donna bianca parla delle anarchie del vivente, no? Sì. Questa è l'uscita dalla caverna, cioè l'idea. Quindi che noi come individui, ma anche come individui sociali, storici, viviamo in una caverna. Qui forse c'è un po' di eco da Platone, ma interpretato in tutt'altro modo, secondo me. Quindi viviamo in una specie di utero, di mondo regolato, di mondo, come dicevo prima, determinato e deterministico, in cui seguiamo le regole, siamo accettati. In una poesia si parla anche di patto sociale, della retorica del patto sociale, e quindi siamo accettati nel nostro mondo, abbiamo un'identità. Però le anarchie del vivente sono qualcos'altro, appunto, sono il coraggio di uscire da questa caverna, perché per nascere bisogna uscire dall'utero. L'utero è fertile, ma a un certo punto non si può restare lì dentro, se no diventa mortifero. Quindi bisogna accettare questa uscita, anche appunto, come dicevo prima, affrontando il deserto, affrontando le difficoltà, ma è solo fuori dalla caverna che si incontra l'altro, che si incontra il mare e che si incontra il mondo. Ecco, questo le due donne, secondo me, l'hanno capito in maniera maggiore nelle poesie e poi anche in parte nella pièce. Quindi la donna bianca protesta perché lei proponeva in questa storia d'amore utopica questa uscita dalla caverna, e questa uscita, e la caverna invece ha vinto, nel senso che questa uscita non c'è stata, e il maschio nero ha deciso di mantenere le caverne. E quindi diceva di questo punto, ho creato io questo panorama di pietra e me ne prendo la responsabilità. Naturalmente ci sono delle giustificazioni a questo, certo, che lui adduce nelle sue poesie, sono delle giustificazioni anche qui storiche, cioè quello che a me interessa dopo secoli appunto di sfruttamento è una nuova alleanza intestina, quindi fra neri, non è dalla bianca che ho appreso la rivoluzione, ma ho chiesto ai nostri Bao, questo è il discorso. Quindi pur apprezzando questa cultura diversa, questo stimolo che gli ha dato l'Occidente, questa donna però lui vuole nero su nero, lo dice tu alla moglie africana, dice tu nera su nero, sei il mio orizzonte, quindi l'uguale, non il diverso, non l'incontro con l'altro, ma l'incontro con l'uguale. Lui ha le sue ragioni, perché questo incontro con l'uguale nella loro storia è stato umiliato, sfruttato, impedito, anzi appunto l'Occidente ha messo sempre dalla tratta degli schiavi, le certo. tribù africane l'una contro l'altra, quindi non è che il maschio nero non abbia le sue ragioni, ce l'ha, però diciamo che poi la moglie africana alla fine fa una sintesi, perché dice in fondo ci avrei guadagnato anch'io da questa uscita dalla caverna, forse il mio matrimonio sarebbe finito, diciamo, però avrei incontrato il mondo quando qui mi è impedito. Quindi lei propone un paradosso: avrei perso il mio focolare, tra virgolette, avrei perso la mia caverna, ma avrei trovato tutto il resto. Questo è il discorso. Sono scelte, insomma, da qualche parte qualcuno, senza tempo e senza storia, sceglie in un modo o in un altro. Noi dobbiamo probabilmente ancora, poi ci ritroviamo tra qualche minuto, lasciamo un attimo la parola al nostro librangolo, a Fiordaliso, e poi passeremo ai saluti finali. 1, 2, 3, librangolo. Cucù. È stato un po' timido questa cosa, questa mia sigla. Ero librangolo, timido e soffuso, fa un caldo pazzesco, quindi. Beh, non si deve soffondersi. Questo non esiste, però me lo sono inventata, mi piace tanto. Soffondersi. Soffocare, ecco. Fondendosi, soffondersi. Perché parleremo di temi leggeri, estive, leggerini. Bene. Tutto leggero. Sento già la frescura. Ecco. E si tratterà di manga. Lo so che mi ricordo che quando abbiamo fatto la nostra trasmissione sui fumetti tempo fa, che proprio dovevamo restringerci a forza di non so che, di non menzionare un sacco di cose che a noi piacciono nel mondo dei fumetti. Io adesso mi concentrerò sui manga giapponesi, e ovviamente mi aspetto che probabilmente pensiate più o meno a ragazzine quindicenni con la gonna cortissima, i calzini lunghissimi e le loro avventure amorose un po' naif. Ma dobbiamo anche dire che nel mondo dei fumetti giapponesi, come anche nel mondo degli anime, cioè dei cartoni animati giapponesi, c'è molto di più di questo, c'è una varietà incredibile. Cioè, prima di tutto, quindi vi faccio un chiarimento sui generi. Ecco, cioè gli shoujo manga sono delle storie di amori e amicizie anche un po' strane, per esempio fra un robot e un ragazzo, Hi. Che sono anche spesso ambientati a scuola. I shonen e i seinen manga sono per i ragazzi e per gli uomini adulti e sono di genere azione e avventura, spesso con elementi di horror, fantastici e anche di erotismo. Per esempio Akira suona conosciuto a tantissimi. I yaoi invece sono dei manga sugli amori gay, gli hentai sono i manga pornografici. Ecco, avete tutto. Poi ci sono altri generi orizzontali come i manga storici, quelli attorno a sport, musica, cioè per il gusto di praticamente tutti. Ed ecco alcune raccomandazioni leggere. Ecco, allora, cominciamo con Jetty Banzai. Tu sta nell'angolo adesso. Per un attimino. Cioè il genere shoujo musica, cioè un po' per ragazze, amore, non so, musica, è nodame cantabile. Si tratta di una ragazza disordinata, irriverente, che però ha un grandissimo talento di pianista. E anche se suona in modo poco preciso, è sempre capace di toccare il cuore della gente con la sua musica. All'inizio non ha ambizioni nel mondo musicale, ma poi incontra Chia, che è un vero staccanovista dell'arte, se posso dirlo, di cui si innamora e via e via attraverso grandi pezzi musicali, amicizie, borse di studio a Parigi e debut di grande successo con il piano concerto di Chopin, che a me piace tantissimo. E il tutto, tutta la storia lungo, cioè, proprio non so quanti volumi, è soffuso di un bel senso dell'umorismo. La serie ebbe così grande successo in Giappone che prima lo trasformarono in una serie di anime, cioè di cartone animato, poi addirittura ne fecero una serie televisiva, quindi oh là là. Rimanendo nel mondo dell'arte, Skip Beat esplora il mondo dello spettacolo. Star aspiranti competono per lavori e popolarità e sviluppano i loro talenti. Kyoko ci capita per il motivo sbagliato. Vuole vendicarsi del suo ex, cantante di successo, che l'ha usata praticamente come una casalinga, trascinandola con sé a Tokyo, dalla sua tranquilla città d'origine. Però presto si scopre il suo talento d'attrice e le cose si mettono proprio sul serio. Anatolia Story è un misto di tanti generi, è un po' amore, un po' avventura e tantino storica. Si ritratta di una ragazza quindicenne giapponese che viene trasportata nel mondo dell'Anatolia del XIV secolo per essere sacrificata per fini cupi, cioè praticamente per far arrivare sul trono uno dei principi, che però non è sul primo posto nella successione. Il principe Ittita, Kyle, la salva e si innamora di lei. La ragazza, Yuri, si rivela essere un leader naturale, una persona di cuore e carattere che presto diventa indispensabile per il regno. E via per battaglie ispirate da veri avvenimenti dell'impero Hittita durante il regno dell'imperatore Mursili il II, e intrigi di corte e tattiche ingegnose. Cioè, lo so che suona strano, però è interessante. Di manga un po' mistici e un po' horror ce ne sono una valanga, non lo so, dipendentemente dal tempo non ve lo menziono neanche, però ce ne sono un sacco, perché l'immaginario giapponese è proprio strano, cioè questo ve lo dobbiamo menzionare, perché questo si traspira anche da tantissimi cartoni animati di grande successo, che a volte si possono riguardare anche 10 volte perché le connessioni logiche sono proprio sballate fuori di questo mondo. Cioè, anche gli anime molto conosciuti hanno avuto come origine una storia disegnata. Il caso dell'ultra conosciuta Candy Candy, che proprio secondo me ha fatto tutto il giro del mondo, anche Dragon Ball, che tutti i bambini proprio ci stanno rompendo le scatole, e anche il Detective Conan, che ultimamente fa furore in televisione. Quindi ecco, avete la anche fonte. Dragon Z. Anche Dragon Z. Sicuramente. Posso fare una richiesta? Certo. Se vorrei un prossimo approfondimento su Candy Candy. No, è il mio cartone animato preferito, ma ne avrei voluto sempre sapere di più, proprio la storia, filologicamente. Filologicamente. Non so se posso fare una storia filologica, però ti posso raccomandare un sito dove puoi leggere la serie, proprio dall'A alla Z. Lo scrivo. Candy Candy, si intitola Candy Candy, la ragazza dagli occhi di bue. Solo che è in giapponese antico. Sì. Comunque, ci sono fantastici siti fatti da volontari che scansionano e traducono volontariamente e lo mettono a disposizione al pubblico. Il Candy Candy si trova su iscariote.org. Ma tanto tutte queste notizie le trovate su brussellando.blogspot.com. Bravi. Ecco, quindi menzionerò Iscariot e menzionerò anche altri due siti, che uno si chiama onemanga.com e l'altro invece si chiama millemanga.com. Cioè proprio ci sono intere serie, cioè proprio mille. È bellissimo. Se volete invece avere il sentimento di essere in Giappone, vi raccomando di visitare il Yamato, micro ristorante vicino a San Boniface, dove si trovano i primi volumi di Absolute Boyfriend nella edizione inglese, e aspettate il vostro turno sfogliando. E di pazienza, effettivamente lì ce ne vuole tanta. Però il grande tanto. Yamato, insomma, merita, secondo noi. Questo non è pubblicità, è proprio un consiglio. Buonissimo. E poi c'è Absolute Boyfriend, che è veramente uno di questi manga con robot stereotipici. Bene, grazie Fiordaliso per i suggerimenti, sempre, devo dire la verità, calzanti per tutte le esigenze che possono poi nascere qui a Bruxelles. Noi siamo in chiusura di trasmissione e volevo ringraziare Serena che non era solo qui con noi questa sera, e volevo salutare quindi il papà Giovanni, che immagino sia venuto appositamente dall'Italia, e che a cui faccio anche i complimenti, perché la copertina di Enfant d'Afrique è sua, e quindi insomma effettivamente ricordiamo quindi Enfant d'Afrique, edito da Joker di Serena Stefani, poi lo approderemo anche sul nostro blog, quindi per quanti volessero sarà possibile quindi avere più informazioni, e poi magari una prossima puntata parleremo anche, perché Bruxellando funziona anche al telefono, quindi sì, se Giovanni avesse piacere potremmo intervistarlo dall'Italia e quindi raccontarci, certo, un po' di questa sua passione per la pittura. Volevo ringraziare ovviamente Serena per essere venuta da Gand a Bruxelles, sì, e voglio ricordare bello ancora anche Caverna, primo, sì, che è edito da Gazebo, collana di poesia e prosa, e volevamo salutarci con una delle poesie che a me in particolare è piaciuta tantissimo e che credo riassuma molto bene poi i temi di cui abbiamo parlato questa sera. Beh, però prima salutiamo, poi chiudiamo. Va bene, allora io ringrazio Dani M in regia. Grande Dani M. Fiordaliso. Saluto anche Mitica, la mia Federica, che si trova in trasferta anche lei dall'Italia qui a Bruxelles. E voilà. Ringrazio Giorgio ovviamente per la sua preziosa collaborazione. Noi senza la di Mary D non possiamo neanche esistere, quindi. Bene, ecco, ecco, Mary D è il nostro grande utero. La caverna. Sì, però, però al di fuori non c'è niente, e questo è il problema. Meglio il niente che la morte. Meglio niente la morte, però qui dentro noi ic manebibus optime, no, come diceva quello. E infatti noi qua siamo benissimo. Però, posso dire solo una cosa? Prego. Aggiungere che nella poesia che leggerai adesso, che è a forma tra l'altro di Africa, scritta, c'è il passaggio dalle poesie di Caverne a Enfant d'Afrique, perché a un certo punto, poi non anticipo la lettura, ma è una poesia del Mal Noir, del maschio nero, che dirà che comunque la bianca, anche se negata, insiste sui territori, non può essere cancellata del tutto. Infatti poi in Enfant d'Afrique lei dopo anni si ripresenterà in Africa e lì ricomincia, diciamo, l'avventura. Per questo questa poesia che leggiamo in chiusura adesso è un ponte tra i due libri. E ne approfitto per salutare anche dai microfoni di Bruxellando Liliana Ugolini, a cui vanno ovviamente veramente i nostri più cari saluti e auguri da tutti noi. Ciao grande mentrice. Allora, ciao a tutti, martedì prossimo. Per fecondare anche te hai meritato qualche favore. Dico, governa i processi nel vuoto apparente. Prendi con gli occhi che con le mani non sai. L'Africa mangia davvero, come caverna e come proscenio. Anche la bianca dei giri di boa. Nelle pirouette però insiste sui territori. Da troppi cicli seguiamo le orme per cancellarti tu court.